Thank you. 100 lire che in America voglio andar. Dico voglio andar. 100 lire io te le do, ma Yeah.